Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi vogliamo ricostruire in modo tale, attraverso il miglioramento sismico e l'adeguamento negli edifici strategici delle scuole, che assicuri che con un 6.0 non c'è il crollo e i cittadini di quei comuni non rischieranno più la vita. E che quello che speriamo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, tutti una volta per tutte, così ha parlato oggi il commissario straordinario per la ricostruzione post-terremoto Vasco Errani in questa conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ne parleremo un po' perché domani è un mese esatto da quel terribile terremoto del 24 agosto. Radio 24 partirà, ci sarà un reportage, poi partirà con un viaggio che durerà vari giorni, ne parleremo anche qui a Effetto Notte. Poi sapete, il venerdì, ultima puntata della settimana ed è il momento del bilancio della politica qui a Effetto Notte. Sono tantissimi gli argomenti, dal Fertility Day alle Olimpiadi, all'Italicum, insomma ce ne sono. Voi potete commentare naturalmente sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al numero 349-238-6666, lo ripeto, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS 349-238-6666. Poi oltre alla politica c'è anche questa accusa che arriva dal Congresso americano, dal Parlamento americano, nei confronti della Russia. Vorrebbe la Russia influenzare pesantemente le elezioni presidenziali americane di novembre. Dietro ci sarebbe addirittura Putin. Anche questo argomento cercheremo di approfondire. Intanto, come sempre, io vi racconto in sintesi la giornata. Unione Europea, mercoledì, vertice tra Juncker, Merkel e Hollande, senza Renzi. Berlino precisa, nessun intento discriminatorio. Siria, sono 90 le vittime provocate da un raid ad Aleppo, tra le vittime molti bambini, nessun accordo sulla tregua tra Stati Uniti e Russia. Immigrazione, è salito a 162 il numero dei corpi recuperati dal mare davanti alle coste egiziane dopo il naufragio due giorni fa di una barca con centinaia di migranti a bordo. Stati Uniti, allarme dal Congresso americano, Putin vuole influenzare le elezioni presidenziali. I dati sull'economia italiana, il paese è fuori dalla recessione dal 2014, dice l'Istat. Renzi commenta, la strada è lunga ma ce la possiamo fare, e rilancia l'ecobonus. Università e concorsi, l'accusa di Cantone, la fuga dei cervelli è legata alla corruzione. Movimento 5 Stelle, Grillo a Palermo per la convention che inizia domani, ci sarà anche Virginia Raggi, Pizzarotti non ci sarà e attacca, Grillo è garante del nulla, dice. Il delitto di Garlasco, condannato a 2 anni e mezzo, il maresciallo che indagò è per falsa testimonianza nell'ambito dell'inchiesta. Twitter, voci sulla vendita, in corsa Google e Salesforce, il titolo vola in borsa. La fine della storia Jolie Pitt, le tate di casa parlano dei figli della coppia, dicono hanno una vita sregolata, non vanno spesso a scuola e di notte corrono per le stanze. Partiamo quindi dall'annunciato vertice europeo di mercoledì prossimo a Berlino tra il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese François Hollande. I tre, si apprende dall'agenda di Juncker diffusa a Bruxelles, incontreranno anche la leadership degli industriali europei. Un vertice europeo, insomma, senza Renzi, il quale, intervistato dai media americani, commenta: un asse con Parigi e Berlino? Il problema è se la Germania accetterà che l'Italia prenda il posto di Londra nel gruppo di testa dell'Unione Europea. Berlino però precisa: nessun intento discriminatorio. Si tratta di un evento annuale, il presidente Juncker vi parteciperà per la terza volta da quando in carica. Con queste parole Mina Andreeva, la portavoce della Commissione Europea, spiega la presenza, mercoledì prossimo a Berlino, di Jean-Claude Juncker accanto alla cancelliera tedesca Angela Merkel e al presidente francese François Hollande. Un incontro, in occasione della cena organizzata dalla leadership degli industriali europei, che sarà dedicato esclusivamente allo sviluppo dell'agenda digitale, precisa la portavoce. Nessun accenno al premier italiano, intorno alla cui assenza, per non dire esclusione, non una notizia trapela. Nessun commento dallo stesso Matteo Renzi, che forse sta pagando l'atteggiamento tenuto al summit UE di Bratislava il 16 settembre scorso, quando ha fatto la voce grossa con i vertici europei, lamentandosi in particolare delle politiche sulla crescita e sui migranti. Intanto richieste a Bruxelles arrivano anche dal Fondo Monetario Internazionale, in questo caso sulla Grecia. Atene ha bisogno di un sostanziale taglio del debito, afferma l'FMI, sottolineando che i target attuali sono irrealistici, anche se la Grecia rispettasse pienamente il suo programma di austerità. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo della terribile situazione in Siria, dove tra Stati Uniti e Russia ancora non si riesce a raggiungere un accordo per una tregua che servirebbe moltissimo ad aprire dei canali per gli aiuti umanitari. Intanto continuano i bombardamenti di Assad su Aleppo e tutta la provincia e sono salite da almeno 90 le vittime delle decine di raid aerei governativi oggi appunto sulla città di Aleppo e sulla sua provincia. Lo riferisce la televisione panaraba Al Jazeera, che parla di più di 150 bombardamenti in 24 ore nella parte orientale della città da parte delle forze del regime. Immigrazione, altri morti, purtroppo la nuova tragedia del mare, è salito a 162 il numero dei corpi recuperati dal mare davanti alle coste egiziane dopo il naufragio due giorni fa di una barca con centinaia di migranti a bordo, lo rendono noto fonti ufficiali egiziane. E oggi l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni ha divulgato i numeri sugli arrivi nel 2016. Un totale di 300.450 migranti e rifugiati sono giunti in Europa via mare, arrivando soprattutto in Grecia e in Italia. Il numero di persone morte nel Mediterraneo mentre cercavano di raggiungere l'Europa è salito ad oltre 3.500. Di questo passo il 2016 sarà l'anno più letale mai registrato nel Mar Mediterraneo, così ha osservato l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati. Spostiamoci sugli Stati Uniti con questo allarme che viene dal Congresso americano. Il Cremlino sta cercando in tutti i modi di influenzare il voto per la Casa Bianca. A rinnovare quella che negli Stati Uniti è una grande preoccupazione sono alcuni membri del Parlamento americano che hanno accesso a informazioni top secret delle agenzie di intelligence. E di questo, come dicevo, di questo allarme parleremo più tardi con Effetto Notte. Intanto si registra una sorta di strappo su un tema specifico tra il presidente americano Obama e la candidata democratica Hillary Clinton, la quale firmerebbe il progetto di legge che consente alle famiglie delle vittime dell'11 settembre di fare causa all'Arabia Saudita. Lo afferma la sua portavoce, il presidente Obama da sempre è contrario a questo provvedimento e dovrebbe mettere nelle prossime ore il veto. La misura è stata varata dal Congresso americano in modo bipartisan. E restiamo negli Stati Uniti, la sindaca di Charlotte, Jennifer Roberts, ha confermato che il coprifuoco nella città percorsa dalle proteste per tre notti consecutive rimarrà in vigore anche oggi durante il fine settimana, le proteste appunto della comunità nera contro la polizia. La prima cittadina ha comunque sottolineato come le manifestazioni svoltesi nella notte scorsa siano rimaste pacifiche. E siamo ai dati sull'economia italiana. L'Istat corregge i conti italiani. Nel 2015 la crescita è stata più bassa, ma per il 2014 la revisione è in rialzo. Nel 2014 il PIL italiano non è sceso, ma è salito dello 0,1%. Per questo diventa l'anno chiave di transizione, ci spiega il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva. Possiamo dire con i dati di oggi che il 2014 è stato un anno di stagnazione, quindi un anno di transizione, e che si conferma all'inizio invece della fase di crescita all'inizio del 2015. Lo scorso anno però la crescita è stata rivista al ribasso allo 0,7%, ma la buona notizia, continua l'Istat, è che il volume del PIL è migliore delle stime precedenti. Plaude il Ministero dell'Economia. Il primo anno di ripresa coincide con l'insediamento di questo governo. Ottimista Matteo Renzi. Tutta Italia ha visto il PIL tornare positivo, ma ancora poco rispetto a quello che noi vorremmo. La strada è ancora davvero molto, molto, molto lunga. Eppure ce la possiamo fare. Critici sindacati. La crescita è insufficiente, basta austerità, dice Barbagallo della UIL, mentre la Camusso parla di stagnazione e deflazione. E boccia del PD attacca, ridicolo guardare al passato, nel 2017 cresceremo la metà di quanto previsto. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poco fa al TG1 il ministro dell'economia Padoan ha detto: per la prossima manovra le risorse sono poche perché il governo continua a consolidare la finanza pubblica, riducendo il deficit, abbassando il debito, ma quelle poche risorse saranno soprattutto, dice Padoan, concentrate per sostenere gli investimenti pubblici e privati e quindi la crescita e le prospettive di occupazione in legame con le riforme strutturali che stanno iniziando a dare i loro frutti. E il presidente del Consiglio Renzi ha annunciato il prolungamento della misura fiscale sull'efficientamento energetico e lo ha fatto durante la conferenza stampa a un mese dal terremoto. La manovra economica che punta alla crescita passa anche per la riqualificazione del territorio ed è agli amministratori locali che si rivolge il presidente del Consiglio Renzi, dando la piena disponibilità del governo nel valutare interventi di miglioramento e adeguamento sismico, oltre che di efficientamento energetico. Da qui la proroga da parte di Palazzo Chigi dell'eco bonus del 65% anche per il 2017. Dobbiamo diventare leader nella prevenzione e nell'intervento infrastrutturale a monte, afferma Renzi. Possiamo litigare su tutto, ma non sul futuro dei nostri figli. Un cambio di mentalità contenuto nel piano Casa Italia, che però richiede un lungo periodo. Nell'immediato, invece, terminata la fase di emergenza nelle zone colpite dal sisma, il governo è alle prese con la ricostruzione affidata al commissario Errani, che propone un modello che rispetti identità, comuni e luoghi. Il decreto, che sarà approvato entro il 3 ottobre, insiste sulla riattivazione economica, su legalità e trasparenza e sui meccanismi chiari del riconoscimento dei danni. Il capo della Protezione Civile, Curcio: non andiamo lontano se diciamo che il danno non sarà meno di 3-4 miliardi. I danni che noi vediamo sono danni cospicui. Non andremo lontano da queste cifre, anzi, credo che siano cifre in difetto. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito del terremoto del 24 agosto, domani, vi dicevo appunto, è un anniversario, un mese passato, alle 7.15 Radio 24 ricorda un mese con un reportage per tutta la prossima settimana, poi nei GR delle 7, il nostro viaggio nelle aree terremotate, proprio in quei luoghi, Amatrice, Accumoli, Arquata, dove tutto è stato raso al suolo. Radio 24 è tornata nei borghi, nelle frazioni, in quei paesi che sono diventati un po' appunto fantasmi, con l'inverno alle porte, tra l'altro. E per noi è stata lì in quei luoghi Teresa Trillò, che saluto. Ciao Teresa. Ciao Roberta. Quindi che cosa hai visto, Teresa? Cosa racconterai anche in questo viaggio? Io racconterò in questo viaggio della voglia di tornare a una vita normale, diciamo così, cioè superato lo shock del terremoto, i lutti che ci sono stati, perché sono morte 297 persone, anche bambini. La gente tenta di ricominciare una vita, cerca di ricominciare a lavorare, i bambini tornano a scuola e ci sono ancora molte persone nelle tendopoli, soprattutto ad Amatrice, che è il paese più colpito dal terremoto, e lo sgombero, cioè il trasferimento dalle tendopoli o in albergo o in case che sono state considerate agibili, è cominciato di fatto oggi ad Amatrice e dovrebbe concludersi nei prossimi giorni, una decina di giorni. A quel punto, quando il commissario per la ricostruzione approverà il provvedimento per stanziare fondi per far partire la costruzione delle casette provvisorie che dovranno ospitare gli abitanti, potranno tornare nei vari paesi queste persone che ora stanno appunto andando nei vari alberghi, o in albergo a San Benedetto del Tronto, oppure nelle case dell'Aquila, case utilizzate nel post terremoto. Molti sono anche rimasti nella zona perché ci sono, perché comunque non vogliono lasciare i loro luoghi, le loro case. Sì, alcuni non possono neanche lasciare, perché ad esempio ci sono gli agricoltori, l'agricoltura, gli allevatori, sono un po' la spina dorsale dell'economia della zona, che si basa anche sul turismo, e devono essere presenti per curarsene. Comunque, da domani Teresa Trillò, quindi, con questo reportage e poi un viaggio che durerà diversi giorni qui su Radio 24 nel GR delle 7 della mattina. Grazie Teresa. Grazie a te. Ciao, buona serata. La politica, domani a Palermo si apre la kermesse del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo è già giunto stasera, poi dovrebbero arrivare quasi tutti i parlamentari, inizia domani alle 10 a Palermo, saranno presenti i portavoce nazionali di Camera e Senato, gli europarlamentari, consiglieri regionali, comunali di tutta Italia, ci sarà anche Virginia Raggi, la sindaca di Roma, non ci sarà invece il sindaco di Parma, Pizzarotti, in polemica ancora con Grillo per la sua sospensione, dice è stata una sospensione ad personam ed è Grillo il garante del nulla, visto che parteggia e non è imparziale, dice Pizzarotti. E poi questa accusa del responsabile dell'ANAC, dell'autorità garante anticorruzione, Raffaele Cantone, che dice c'è un grande collegamento enorme tra fuga di cervelli e corruzione. Lo ha detto oggi a Firenze intervenendo al convegno nazionale dei responsabili amministrativi delle università. Cantone lo ha detto dopo aver riferito che l'ANAC è subissata di segnalazioni di presunti casi di corruzione negli atenei italiani. C'è una notizia di cronaca che vedo proprio adesso attraverso un'agenzia. Un tir è piombato su un'auto ferma al casello di Rondissone, Torino, della A4, Torino-Milano, per prendere il biglietto su questa macchina che era lì per prendere il biglietto del pedaggio. Sulla vettura c'era un'intera famiglia, i genitori sono morti sul colpo, feriti due figli, un bambino e un neonato, trasportati dal 118 a Regina Margherita di Torino. E poi un'altra agenzia che dice il camionista del tir che ha travolto un'auto ferma al casello è stato rintracciato e fermato dalla polizia stradale di Novara dopo 40 chilometri, è uno slovacco apparso in stato confusionale quando è stato bloccato dagli agenti. E ancora la cronaca con il delitto di Garlasco, condannato il maresciallo che indagò sul delitto, 2 anni e mezzo di reclusione e i danni da pagare ai familiari di Chiara Poggi con una provvisionale di 10.000 euro perché l'ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto, ora in pensione, è stato condannato per falsa testimonianza nell'ambito dell'inchiesta dell'omicidio di Garlasco. Sapete che testimoniò appunto il falso sulle ragioni per le quali non aveva sequestrato la bicicletta nera nella disponibilità di Stasi e influenzò così l'esito del processo. Anche per questo motivo Stasi incassò una doppia assoluzione, cancellata poi però dalla Cassazione che lo ha condannato, che ordinò un processo, un nuovo processo, e poi l'imputato fu condannato a 16 anni. E poi parliamo delle giornate, avvia le giornate del patrimonio culturale, tornano domani le giornate europee del patrimonio con oltre 1000 eventi in tutta Italia, lo ricorda il Ministero dei Beni Culturali, sottolineando che per l'occasione molti luoghi della cultura statale osserveranno un'apertura straordinaria serale di 3 ore al costo simbolico di 1 euro per celebrare questa iniziativa che dal 91 coinvolge i 50 paesi che fanno parte della Convenzione Culturale Europea del Consiglio d'Europa. Per chiudere, la fine della storia Julie Pitt ha un nuovo capitolo. L'FBI sta raccogliendo informazioni sul presunto incidente che ha coinvolto Brad Pitt e i suoi figli a bordo di un jet privato la settimana scorsa e sta valutando se aprire un'indagine su supposti maltrattamenti di Pitt nei confronti dei figli. E poi intanto le tate di casa Julie Pitt parlano dei figli della coppia e dicono hanno una vita sregolata, non vanno spesso a scuola, di notte corrono per le stanze, insomma vengono fuori di tutti i colori. Intanto, prima di lasciarci per la viabilità, un messaggio, leggo questo di Lucio al 349-238-6666, dice: ma dell'aperitivo di lavoro tra il trio franco-tedesco-lussemburghese a noi cosa interessa? I tre hanno vita politica breve. Non mi pare Lucio Juncker, pare che sia da molto sulla scena, o la cancelliera Merkel, è addirittura al suo terzo mandato in Germania, nello stato più potente d'Europa, non mi sembra che abbiano vita politica breve. Vedremo insomma se davvero questa di Renzi è un'esclusione o che significato può avere. Ci sentiamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie nella loro sintesi della giornata ve le ho raccontate, adesso cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti con gli ospiti. Intanto i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Riccardo, a proposito dell'accusa lanciata oggi da Cantone dell'ANAC sulle università e la fuga dei cervelli, che spesso è collegata alla corruzione anche all'interno degli atenei, dice Riccardo: non sono un cervello, ma cambio aria per un po'. Vado a fare il chirurgo in Francia, dove ho passato una selezione tra vari candidati. Amo l'Italia, ma in questo momento la politica non è garante della meritocrazia. È un'accusa rivolta all'Italia molto molto spesso, purtroppo. Adesso vi ricordo quali sono le notizie più importanti e poi cominciamo con il bilancio della politica della settimana. Vertice Juncker, Merkel, Hollande, mercoledì prossimo senza Renzi. Il premier dice asse Parigi-Berlino dipende dalla cancelliera. E poi l'Istat che dice che siamo ormai fuori dalla recessione dal 2014, rivista la crescita. Renzi dice la ripresa è oggettiva. E poi per il bilancio di Roma, per l'assessorato al bilancio, in pole position magistrato contabile Tutino, dovrebbe essere ufficializzato la prossima settimana. Cantone è il numero uno dell'autorità anticorruzione, che dice la fuga dei cervelli e la corruzione all'università sono collegati perché la nostra autorità è subissata da segnalazioni di casi negli atenei italiani. Molto triste questo. E poi recuperati anche questo 162 corpi dopo il naufragio di migranti in Egitto, e per la Siria pioggia di bombe, 90 morti tra cui molti bambini. Twitter tratta la vendita in corsa Google e Salesforce, il titolo vola in borsa con i rumors, tocca più 21,15%. Per il delitto di Garlasco è stato condannato a 2 anni e mezzo il maresciallo che indagò, è condannato per falsa testimonianza. E poi per la fine della storia Julie Pitt parlano le tate di casa, dicono i figli avevano una vita sregolata, non vanno spesso a scuola e di notte corrono per le stanze. Quindi siamo al bilancio della politica della settimana, come sempre, il venerdì un bilancio piuttosto ricco tra il no definitivo alla candidatura di Roma per le Olimpiadi 2024, il travagliato Fertility Day. Tra l'altro vedo adesso la ministra Lorenzin che dice farò un bando per reclutare dei comunicatori per il prossimo anno, quindi se vi volete mettere in lista, le aperture di Renzi alle modifiche della legge elettorale riformata e quindi da riformare, ovvero l'Italicum. Domani a Palermo inizia la 2 giorni del movimento di Grillo, Italia Italia 5 Stelle, si chiama, ci sarà la Raggi, sindaca di Roma, ma non Pizzarotti, che continua a essere molto in tensione e in polemica con Grillo. E poi, diciamo, per rinfrescarci brevemente la memoria rispetto ai principali fatti politici di questa settimana, adesso sentiamo qualche voce dei protagonisti. Intanto saluto Lina Palmerini, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Lina. Ben ritrovata. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Allora, cominciamo dalla sindaca di Roma e dalla sua conferenza stampa per ufficializzare il no definitivo alla candidatura di Roma ai Giochi 2024. È da irresponsabili dire sì a questa candidatura. È da irresponsabili, l'abbiamo detto con forza in aula Giulio Cesare a giugno del 2015, eravamo in quattro. Lo abbiamo ribadito in campagna elettorale. E lo diciamo qui oggi, mantenendo una posizione. Non abbiamo mai cambiato idea, anzi, abbiamo rafforzato la nostra idea sulla base degli ultimi dati. Il presidente del CONI Malagò chiaramente ci è rimasto molto male, tra l'altro la sindaca ha disertato anche l'incontro che dovevano avere anche con la delegazione del CIO per un consistente ritardo. Malagò però il giorno dopo, in occasione della presentazione del logo di Euro 2020, ha detto che una donna non deve mai chiedere scusa e da consumato seduttore ha fatto il baciamano al Raggi e ha concluso così. Teoricamente ci sono diversi piani B. Perché nella storia delle candidature olimpiche ci sono molti paesi che hanno continuato a sostenere la candidatura quando ci sono stati dei problemi o nei comuni o nelle regioni o negli stati stessi, ma io dal primo giorno ho sempre sostenuto che questa strada non è una strada giusta, perché secondo me non è corretto, non è elegante e tra le altre cose credo che così come noi abbiamo acquisito in questi 3 anni che stiamo sostenendo la candidatura negli angoli del mondo, molta credibilità per quello che è il Comitato Olimpico, per quello che è stato lo sport italiano, per quello che siamo oggi, perderemo questa credibilità. È una cosa, in inglese dice unfair, cioè una cosa proprio non da fare. E quindi noi non la vogliamo fare e con molto rispetto ci adegueremo a quello che è una decisione che onestamente la consideriamo profondamente ingiusta. In proposito, come era naturale, è intervenuto ieri 8:30 anche su questo tema il Presidente del Consiglio Renzi, il quale ha detto che la questione ormai è chiusa definitivamente perché non si può procedere contro un comune, però ha lanciato anche una stoccata al Movimento 5 Stelle. La discussione parlamentare è una discussione che viene gestita dal Parlamento della Repubblica. Il governo ha dato la massima disponibilità a intervenire nelle forme e nei tempi che il Parlamento vorrà. Dunque adesso 5 Stelle ha spiegato la propria posizione, aspettiamo che dicano la loro anche quelli del centrodestra e poi sarà tutto più chiaro perché alla fine avremo finalmente le proposte in campo. Questo riguardava in realtà il referendum, cioè l'Italicum, diceva a proposito delle proposte, sentiremo, il Movimento 5 Stelle ha chiarito, c'è stato uno sbaglio nel file. Lina Palmerini, comunque, che idea ti sei fatta? Perché ci sono due partiti, quelli che dicevano sarebbe stata una grande occasione persa, dall'altra parte chi con la sindaca Raggi dice era invece un'occasione per i magna magna ulteriore per indebitarsi, c'è anche chi non ha una posizione precisa e dice hanno ragione forse un po' tutti e due. Senti, ho sentito che hai cominciato parlando di Cantone, di questo allarme corruzione alle università. Cantone oggi ha detto anche un'altra cosa, cioè che la paura della corruzione non deve fermare le opere, cioè che è una rinuncia un po' incomprensibile, nel senso parli da Milano, a Milano c'è stato l'Expo, è stato un evento anche quello organizzato, ci sono stati problemi anche di corruzione, è dovuto intervenire Cantone, però nel corso della gestione di quest'opera anche prima sono stati attivati degli anticorpi, ecco, secondo me questo è il circuito giusto, cioè fare le cose, provare a fare degli investimenti per migliorare come è successo a Milano, ecco, per migliorare la capitale Roma e poi attivare però tutti gli anticorpi. Cioè a Milano c'è stata l'autorità anticorruzione che ha vigilato, una procura di Milano estremamente efficiente, un sindaco Pisapia che è stato bravo nella gestione di questo evento. Io credo che tutto sommato Milano ne abbia guadagnato, è una città migliore di prima. Forse Roma è in una situazione un po' diversa, Lina. È in una situazione un po' diversa, però non è che la situazione del debito di Roma ai 13 miliardi possa essere risolto soltanto con l'ordinaria amministrazione, servono anche investimenti. E poi vorrei anche ricordare, è vero, c'è questo debito di oltre 13 miliardi, ma non c'è ancora un assessore al bilancio. Anche tu prima nei titoli ricordavi che c'è l'annuncio, forse faranno un ex magistrato contabile fino all'assessorato al bilancio, però questo annuncio non è ancora arrivato. Allora non è soltanto la straordinaria amministrazione un problema, è anche l'ordinaria amministrazione. Forse rimettersi in moto e provare ad attivare tutti gli anticorpi per fare le cose in maniera corretta, forse era, diciamo, anche questo faceva parte del voto ai 5 Stelle. Credo che a Roma la scelta sia caduta sulla Raggi anche per così la speranza che potesse cambiare. Anche se lei ha detto, noi in campagna elettorale avevamo detto chiaramente il 70%, 67% ha votato per me, quindi praticamente è d'accordo con questa posizione, è un po' la sua conclusione, no? Dal punto di vista del consenso. Però avevano parlato anche di un referendum, sì, questo sì. Che però non c'è stato, quindi insomma la cosa è controversa. Io voglio dire che capisco le ragioni del no, sono perfettamente coerenti con quella che è la situazione attuale di Roma, ma si deve, credo, lavorare anche per il futuro, per dare delle occasioni a una capitale. Se passiamo da rinuncia a rinuncia, forse anche i romani non si sentiranno mai all'altezza di nessun rilancio, evento, possibile rilancio. Rilancio. Senti, invece per il Fertility Day, Lina Palmerini, era cominciato male, finito peggio, una doppia campagna sulla fertilità nata a proposito di nascita sotto una cattiva stella, polemiche sulla prima, poi seguita da questa copertina di uno degli 8 puscoli, no, dove c'era questa immagine discriminatoria, razzista è stata definita, perché c'erano per le buone abitudini, per la fertilità, questi giovani bianchi, e per le cattive abitudini erano... c'era la foto di neri che fumavano, non so, marijuana. Sentiamo un passaggio della difesa della ministra Lorenzin a questo proposito. Nel momento che la campagna era brutta, e sinceramente pure per me era brutta, perché il significato della campagna è questo, che è quello che io ho detto e sto dicendo da 2 anni, sono 2 anni che io parlo pubblicamente del Fertility Day, di quelli che sono i nostri obiettivi, di come lo stavamo preparando. Abbiamo fatto una grande giornata sulla salute della donna che è stata seguita online da circa 8 milioni di persone, quindi è stata una cosa enorme, gigantesca, ed è un lavoro in continuità. Io ho subito detto, se la campagna non piace, è brutta, la cambiamo, perché io mica faccio il ministro della comunicazione. Insomma, dice è brutta, era brutta anche per me, non so se ci poteva pensare prima. Comunque prima 8:30 ha detto proprio che per la giornata nazionale l'anno prossimo del Fertility Day dice emanerò un bando per cercare dei buoni creativi, insomma, diciamo, sì, non ma, si arrende. Diciamo è necessario, anche perché come hai ricordato tu era partita già male, perché c'era stato un equivoco di fondo, doveva essere una giornata, diciamo, con un'attenzione alla salute, e quindi più centrata, ecco, sull'aspetto sanitario della salute, invece si è tradotto quasi in uno stile di vita. Allora già questo era totalmente sbagliato, perché è stato gioco facile ricordarle che poi la maternità insomma dipende da tante cose, è una scelta di vita che dipende dall'occupazione, dal reddito, da tutti quelli che sono i problemi dell'Italia, per cui, cioè, al di là del comunicare bene, forse bisognava anche un po' mettere a fuoco il ruolo del Ministero della Sanità, un po' meglio centrato sulla salute più che su uno stile di vita femminile. Senti, invece Lina, per chiudere, Renzi un po' su due fronti te lo proporrei. Uno sull'Italicum, che sul quale ha detto, dopo insomma sembrava che fosse la legge più bella del mondo, che è aperto assolutamente a tutte le proposte, no? E anche il Movimento 5 Stelle ha chiarito la propria in questa settimana, che è un ritorno al proporzionale con le preferenze. Dall'altra c'è il fronte europeo. C'è questo vertice mercoledì e si parla, insomma, Berlino ha detto no, ma non è nulla di discriminatorio questo vertice tra Merkel, Hollande e Juncker, però significa già un'esclusione per come Renzi sta facendo la sua, come possiamo chiamarla, campagna europea anche sull'immigrazione. Ha detto parole dure, ha detto visto che arrivano solo parole noi ce la caveremo da soli, insomma. Allora, da dove comincio? Dalla legge dove elettorale. Allora, la legge elettorale era la richiesta di cambiamento, una richiesta che veniva dall'interno del Partito Democratico, dalla minoranza, sinistra PD, eccetera. È stata votata questa mozione in cui c'è una disponibilità a cambiare. Questo fa parte anche del nuovo tono che ha assunto Renzi in vista della campagna referendaria, un tono più dialogante, più teso, diciamo, a compattare. Dopodiché di sostanza c'è poco, perché Naturalmente la vittoria dei sì e dei no sarà uno spartiacque, si capirà chi darà le carte dopo il referendum a seconda di chi vincerà, quelli del no, quindi 5 Stelle, quelli del sì, Renzi, quindi avranno delle posizioni di forza molto diverse al tavolo, diciamo, della legge elettorale all'indomani del referendum, quindi oggi è impossibile parlare di cambiamenti. Il rinvio è nei fatti, perché appunto lo spartiacque sarà l'esito referendario. Del resto un rinvio è stato anche quello deciso dalla Consulta. Passando invece al tema dell'Europa, ecco, mi rendo conto, Renzi non poteva pretendere di far parte, diciamo, di questo incontro, di questo direttorio a due, avendo, come dire, alzato parecchio i toni nei confronti sia della Germania sia delle politiche europee di austerità, quindi il suo non invito, diciamo, era nelle cose. Questo credo faccia parte non solo di una trattativa molto difficile e complicata in Europa sui margini di flessibilità che sta chiedendo l'Italia per la legge di stabilità, ma fa parte anche della contingenza politica europea attuale. Tutti più o meno sono in campagna elettorale, lo è Renzi con il referendum, c'è una campagna elettorale che comincerà a breve anche in Francia, perché si vota l'anno prossimo, anche la Merkel è reduce da alcuni appuntamenti elettorali, diciamo, locali, e ci saranno le elezioni anche lì in Germania l'anno prossimo. Cedere al fronte del rigore sicuramente non è un tonico, diciamo, per la cancelliera in termini interni. E quindi, diciamo, tutto questo risponde più a degli interessi prevalenti nazionali che a una spinta comune e comunitaria di risolvere. Come sempre, ormai da diverso tempo. Grazie Lina Palmerini, commentatrice del Sole 24 Ore. Ciao Lina, buona serata. Grazie, buonasera. Ciao. E adesso i vostri messaggi, prima di lasciarci brevemente per una pausa. Per esempio Cosimo da Pistoia dice: mi domando se a Roma si riuscirà a fare un torneo di boccia nel 2018, ma lo vedremo. Poi invece Carlo da Torino: cara Giordano, noi a Palermo usiamo dire un nudda miscatu cucunenti. Il Movimento 5 Stelle è nella sede giusta, questa è la traduzione evidentemente. E poi invece un ascoltatore che, a proposito dell'accusa dell'ANAC di Cantone, dice: in Italia meritocrazia zero. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, ci sentiamo a momenti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Tecnologie logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Tante le notizie, abbiamo approfondito un po' la politica, il bilancio della politica della settimana come tutti i venerdì, e adesso invece cambiamo tema, ci trasferiamo negli Stati Uniti per questa accusa pesantissima del Congresso alla Russia e addirittura nella persona precisa diretta di Putin. Ne parleremo tra pochi istanti. Intanto i vostri messaggi continuano ad arrivare tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Ancora sulla sindaca Raggi, sulla situazione a Roma, le Olimpiadi. Carmela da Roma dice: la Raggi aveva promesso un referendum se i romani l'avessero richiesto, nessuno lo reclama, a Roma dobbiamo sanare il quotidiano, non ritengo possa esserci spazio per altro. Quanto ammonta il debito residuo che Roma ha per le Olimpiadi del 1960? È una favola metropolitana o è realtà? Pare che ci sia uno studio anche della Università di Oxford su, per esempio, i costi che sono esplosi anche per altre edizioni, quella di Barcellona, di Londra, che si paghi ancora il debito del 1960, così ha detto la sindaca in conferenza stampa. Fabio scrive: il sindaco Grillo dice ha detto no alla candidatura olimpica per le esigenze politiche interne al suo partito, con decisione monocratica, speriamo benedica il nuovo terzo assessore al bilancio, che dovrebbe essere ufficializzato la settimana prossima. E poi altri messaggi sul Fertility Day, questo lo leggo magari dopo, perché adesso vi ricordo quali sono le notizie più importanti. Unione Europea, mercoledì vertice tra Juncker, Merkel e Hollande, senza Renzi, Berlino precisa nessun intento discriminatorio. Siria, sono 90 le vittime provocate da un raid ad Aleppo, tra le vittime tra i bambini, molti bambini tra i morti, nessun accordo sulla tregua tra Stati Uniti e Russia. Ed è salito a 162 il numero dei corpi recuperati dal mare davanti alle coste egiziane dopo il naufragio due giorni fa di una barca con centinaia di migranti a bordo. Stati Uniti, allarme dal Congresso americano, Putin vuole influenzare le elezioni presidenziali. Ne parliamo tra pochissimo, poi ci sono i dati sull'economia italiana, il paese fuori dalla recessione dal 2014, dice l'Istat, e Renzi commenta: la strada è lunga, ma ce la possiamo fare. Università e concorsi, l'accusa di Cantone che dice la fuga dei cervelli è legata alla corruzione degli Atenei. Movimento 5 Stelle. Grillo a Palermo per la convention che inizia domani, ci sarà anche Virginia Raggi, Pizzarotti no e attacca e dice Grillo è garante del nulla. Twitter, voci sulla vendita, in corsa Google e Salesforce, il titolo vola in borsa. Quindi da un po' di tempo dagli Stati Uniti arrivano delle accuse di pirateria informatica da parte della Russia, vi ricordate qualche giorno fa anche a proposito del presunto doping di atleti americani, ma c'è un'accusa ben più grave di questa, neppure nuova però, che gli Stati Uniti muovono alla Russia, secondo questa accusa il Cremlino sta cercando in tutti i modi di influenzare il voto per la Casa Bianca. A rinnovare questa accusa negli Stati Uniti, questa grande preoccupazione, sono alcuni membri del Congresso, quindi del Parlamento americano, che hanno accesso a informazioni top secret delle agenzie di intelligence. E chiediamo cosa ha potuto scavare da queste cose Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Tu, Marco, non hai accesso a questi documenti top secret, immagino? Oh, assolutamente, io ho accesso a questi e ben altri documenti top secret, però appunto sono così top secret che non posso rivelarli in onda, assolutamente. Quindi mi limiterò a raccontare quello che chi davvero ha accesso ai briefing, appunto, come ricordavi, dell'intelligence americana, poi rivela. E in questo caso, come dicevi tu, due leader democratici, la senatrice Dianne Feinstein e il deputato Adam Schiff, che sono i due deputati, i due leader senior nelle commissioni intelligence di Senato e Camera, hanno messo nero su bianco l'accusa alla Russia, l'accusa politica alla Russia di voler influenzare le elezioni americane. L'accusa è di volerle screditare, comunque metterne in dubbio la sicurezza e la certezza, quindi diciamo in qualche modo di minare le fondamenta della democrazia americana, e poi anche più precisamente però forse anche aggiungono di voler influenzare l'esito. Ecco, non dicono esplicitamente in che senso influenzare l'esito, ma sappiamo che dagli ambienti democratici il sospetto non troppo nascosto è che a Putin potrebbe far molto piacere in realtà una vittoria di Donald Trump. Ecco, i due parlamentari democratici dicono: siamo convinti, sulla base di quello che ci hanno riferito appunto le fonti di intelligence, che gli ordini agli hacker non possano che arrivare dall'intelligence russa, e che questi a loro volta non possano che rispondere ai livelli più elevati, ai livelli più senior del governo russo. Quindi chiediamo direttamente al presidente Vladimir Putin di mettere immediatamente uno stop a questo genere di attività. Insomma, la guerra fredda non è mai finita, diciamo, Marco. Non è mai finita, oppure è sempre pronta a riprendere. Sempre pronta a riprendere. Fra l'altro c'è anche una notizia di poco fa, questo strappo, come definito, tra Obama e la candidata democratica Clinton sul fatto che Hillary firmerebbe il progetto di legge che consente alle famiglie delle vittime dell'11 settembre 2001 di fare causa all'Arabia Saudita. Obama è contro questa cosa, questa possibilità. Lei invece dice che vorrebbe firmare questo provvedimento. Sì, sì, diciamo che qui è possibile che sia più una questione di tattica politica che non di divergenze di fondo. Chiaramente Obama, come diciamo presidente in carica, tiene conto anche di elementi di realpolitik, e quindi diciamo l'Arabia Saudita, con pure tutti i difetti riconosciuti, è un alleato nella lotta al terrorismo, comunque un alleato degli Stati Uniti, Ambiguo, quindi, diciamo, un alleato ambiguo, perché a sua volta sappiamo che è alimentato. È inaffidabile, per quanto però appunto rifornito con sofisticate armi ora dall'amministrazione americana, è storico, diciamo, come alleato, con pure tutti gli alti e bassi e i distinguo, diciamo, che ricordavi tu adesso, per cui, diciamo, questa diciamo, l'inserimento di una possibili cause legali che leghino esplicitamente il governo saudito, le istituzioni saudite agli attentati terroristici, ecco, rischiano di creare problemi poi diplomatici a un'amministrazione. Ecco, Hillary Clinton, che è libera in questo momento da quel tipo di responsabilità, può, diciamo, spingersi più in là, essere più aggressiva. Rimane poi da vedere se una simile aggressività la manterrebbe anche davvero da presidente. Questo, diciamo, sono poi quelle cose che si dicono in campagna elettorale, diciamo, poi bisogna vedere se hanno un seguito. Senti, con una battuta, infatti, cosa risponderesti a questo ascoltatore che dice, anche secondo, diciamo, parole un po' così, però effettivamente una cosa forse abbastanza fondata, dice: gli Stati Uniti che attaccano la Russia sulla pirateria informatica, il bue che dice cornuto all'asino. Diciamo che lo spionaggio, un po' di vista informatico, questo è reciproco, è frenetico, è costante. In questo caso si dice si vuole influenzare l'elezione, certo, a loro volta gli Stati Uniti, essendo sì, il paese, diciamo, più potente del mondo, avranno influenzato. È vero che lo spionaggio è diciamo, è una battaglia, una guerra globale, diciamo, e quindi da tutte le parti. Ecco, in questo caso l'elemento però di differenza è che se davvero questa, diciamo, è la tesi che viene provata, ecco, diventa, diciamo, un uso particolarmente aggressivo e offensivo diciamo così, dell'hackeraggio, dello spionaggio elettronico, e ad altissimo con livello, poi, di destabilizzare un voto democratico. Quindi, diciamo, c'è una qualità, un elemento qualitativamente molto più forte in questa accusa alla Russia che non l'elemento di dibattito comunque che esiste, le polemiche comunque esistono sulle violazioni della privacy o su comunque gli abusi che ci sono comunque da una parte, diciamo, anche nei paesi democratici dell'uso, diciamo, dello spionaggio digitale. Grazie Marco Balsani, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ciao Marco. Grazie a voi. E adesso sentiamo gli aggiornamenti per chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi do adesso in pochi secondi, Roberta Giordano sempre con voi, vi aggiorno. Adesso arriva un'altra notizia di un nero ucciso dalla polizia a Baltimora, già uno. Notizia di un altro ucciso a Baltimora ieri si aveva avuta. La polizia della contea di Baltimora in Maryland ha ucciso un uomo di colore nel corso di una sparatoria legata a indagini su una rapina in banca, lo riportano le autorità locali, ancora non specificano se è un caso simile agli altri oppure no. E poi le altre notizie principali sono appunto il vertice annunciato di Juncker, Merkel e Hollande mercoledì prossimo senza Renzi, con il presidente del Consiglio italiano che dice asse Parigi-Berlino dipende dalla cancelliera. E poi l'Istat che dice siamo fuori dalla recessione dal 2014 e Renzi che commenta la ripresa è oggettiva. Poi per il bilancio di Roma in pole position per l'assessorato c'è il magistrato contabile Tutino, verrà ufficializzato probabilmente settimana prossima, e il numero uno dell'autorità garante contro la corruzione Cantone che dice la fuga dei cervelli è strettamente legata alla corruzione nelle università. Per quanto riguarda il naufragio vicino alle coste egiziane, recuperati 162 corpi di migranti. E poi sulla Siria, pioggia di bombe da parte del regime di Assad, 90 morti, tra cui molti bambini. Europa 24 notte. Dal teatro alla musica, dalla danza all'audiovisivo, dalla comunicazione al design, la creatività in Europa viene premiata, 1,46 miliardi di euro, i finanziamenti previsti fino al 2020 nell'ambito di Europa Creativa, che è il programma europeo per la cultura che sostiene progetti culturali che dimostrino la capacità di operare a livello transnazionale. Ma quanto è importante investire in cultura in Europa, soprattutto in un momento di crisi? Alessandra Sepisi ne ha parlato con Luigi Morgani, europarlamentare PD, componente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo. Qui c'è un dato che mi pare importante, e cioè il livello di conoscenza di quante sono le realtà che si occupano di produzione culturale e creativa mi pare poco noto non solo diciamo al grande pubblico, ma in parte anche a coloro che potrebbero essere addetti ai lavori. Mi spiego, se in questo momento tanto unicamente a, diciamo, a ciò che in questo momento rappresenta questo ambito di Europa creativa, cioè questa linea di finanziamento come è stata a suo tempo definita, noi abbiamo 6 milioni e 300 mila persone che si occupano esattamente di questa realtà. È un dato che è paragonabile agli occupati dell'intero settore bancario e assicurativo assieme. E la cosa che è più importante è che qui operano principalmente giovani, è il settore anzi dove più giovani operano di età compresa tra i 15 e i 29 anni e sostanzialmente rappresentano in questo momento il 4,5% dell'economia europea, quindi mi pare un elemento molto importante. Unito a questo c'è anche un altro dato, e cioè sappiamo bene qual è la concorrenza a livello internazionale, ma lo strettissimo legame che c'è proprio per le competenze e le tradizioni storiche dei territori fa sì che queste realtà, mi riferisco quindi sia le piccole e medie imprese, ma devo sottolineare in particolare le microimprese, queste sono difficilmente delocalizzabili, non mi pare in questo momento una cosa così trascurabile. Dietro a questo c'è evidentemente anche, come dire, la preoccupazione che riguarda la formazione in termini generali, perché non c'è dubbio che con riferimento in particolare al tema ad esempio dell'artigianato, è chiaro che se non c'è una particolare attenzione ora per allora si rischia che nel giro di 2 generazioni questa, diciamo pure primato europeo che esiste a livello internazionale, potrebbe essere in qualche misura perso, e questo evidentemente comporterebbe un grave rischio. Da qui una preoccupazione in più nella richiesta all'Unione da un lato, in particolare ovviamente alla Commissione, ma anche agli Stati membri, di prestare molta più attenzione di quella che finora è stato fatto a questi settori. Quindi che l'Europa dovrebbe investire di più, secondo lei, in cultura? Non c'è dubbio. Investire di più perché proprio per le caratteristiche che hanno queste realtà, tra cui la mancanza di garanzie materiali e la dipendenza da attività immateriali, hanno un accesso al credito davvero molto molto molto problematico. Quindi servono delle soluzioni specifiche. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora, come sempre, il venerdì, prima di congedarci, è tempo di sapere che tempo farà col nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caro Paolo. Buonasera Roberta, beh guarda, siamo entrati ufficialmente in autunno, ma in realtà di autunno non ce ne sarà neanche l'ombra. Meno male. Sarà un weekend estivo quasi dappertutto, perché per la verità sulle isole maggiori in Calabria un po' di nuvole ci saranno e ci saranno anche degli acquazzoni dei temporali. La Sicilia temo che domenica possa avere piogge anche piuttosto importanti, quindi lì in realtà sì, sarà autunno, ma nel resto del paese, ripeto, tanto sole, temperature miti, toccheremo i 25-26 gradi e aggiungo che settimana prossima non solo non capiterà nulla di importante, ma rischiamo di risfiorare i 28-30 gradi, quindi per ora colpo di coda dell'estate. Quindi ritorna l'estate, una notizia magnifica, almeno per me, spero per molti. Grazie, buon tempo a te comunque sia, Paolo Corazzon. Grazie, buon tempo a tutti. Ciao Paolo. E poi un ultimo messaggio, giusto prima di lasciarci per gli aggiornamenti, Giuseppe che scrive sulla pagina Facebook Fertility Day, già dal titolo giornata dell'orologio biologico, riguarda tutti e tutte le età che andrebbero vissute in maniera sana, con tempo per ogni comportamento a suo tempo, ma in sanità pubblica, in questa propaganda ministeriale ce n'è davvero poca. Questi i vostri messaggi, direi che ci possiamo lasciare per ritrovarci poi brevemente alle 22:00.